è andato a scrivere il cartello. Lo aspettiamo. La differenza tra il sistema assicurativo e il servizio sanitario nazionale è che il sistema assicurativo garantisce solo quell'elenco di prestazioni che voi contrattate con l'assicurazione. Il servizio sanitario nazionale invece vi garantisce un complesso di prestazioni che vanno dalla promozione della salute alla prevenzione, per esempio gli esami veterinari sulla qualità della carne che importiamo, che ne so, dalla Cina, fino al medico di medicina generale, i consultori, gli ambulatori, l'ospedale, la riabilitazione pubblica. Quindi il servizio sanitario nazionale si prende carico complessivamente dei cittadini. Le assicurazioni forniscono dietro pagamento solo quello che si paga e quindi limitano l'accesso alla salute e alla disponibilità di soldi. La differenza fondamentale quindi tra una società che ha il servizio sanitario nazionale che ha il sistema a pagamento e il servizio sanitario nazionale che garantisce, riconosce la salute come un diritto di individuali. Dove invece c'è l'assistenza attraverso assicurazioni, la salute viene garantita di conto la corrispondenza di moneta. Ora, noi abbiamo fatto il servizio sanitario nazionale circa 30 anni fa, 1978. In questi 30 anni il mondo è cambiato molto e ci sono oggi delle valutazioni disponibili sia su quanta salute producono i sistemi in cui si paga l'assistenza, sia su quanta salute producono i sistemi in cui l'assistenza è data appunto da questi servizi sanitari nazionali, e emergono dei problemi perché per esempio in Italia il servizio sanitario nazionale è stato aziendalizzato. Allora il ragionamento sulla sanità come bene comune si inserisce in questo dibattito, perché poi voi sentirete dire adesso sotto l'onda della crisi: ah, la sanità non può restare pure perché costa troppo, la privatizziamo perché questo costerebbe di meno. Quindi il ragionamento su la sanità come bene comune si colloca in questo orizzonte, vuole presentare anche un terzo modo di gestione. Non esiste solo un modo di gestione privato, non esiste solo un modo di gestione pubblica, esiste anche un modo di gestione comune. E adesso vedremo alcune evidenze, non so, voi forse siete più di cultura, diciamo, umanistica, in campo medico scientifico si ragiona a partire da evidenze. Cioè si fanno degli studi che devono tendere a dimostrare che una cosa funziona rispetto a un controllo, questo è l'altro. Quindi vi presenterò velocemente le valutazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui modi di gestione privata e pubblico, poi entreremo nell'ottica di che cosa potrebbe proporremo nella situazione odierna, diciamo, nella Costituzione 2037, poi presenterò un modello, diciamo, e anche delle applicazioni possibili. Allora, ecco, questo primo grafico riporta la valutazione che ha fatto l'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla salute che producono i modelli di grafico. Non so se c'è della parola a leggere i grafici, diciamo che i pallini sono gli stati del mondo, e sono circa 120-130, quindi non sono tutti 196 stati del mondo, però sono sicuramente la maggioranza. Ogni pallino rappresenta uno stato. Voi vedete che ci sono due fenomeni che vengono rappresentati. Qua è l'aumentare della spesa privata come totale della spesa sanitaria. E diciamo così, sulla linea verticale viene rappresentato il numero di anni vissuti senza disabilità. Perché il servizio sanitario funziona bene quando permette ai cittadini di vivere senza disabilità. La retta, che fa? Rappresenta l'interpolazione di quello che è stato misurato in tutti e circa i 120 paesi del mondo. Come vedete bene, la retta dice che minore è la quota di spesa privata sul totale della spesa sanitaria e più alto è il numero di anni vissuto senza disabilità. Quindi questa diapositiva, questo diagramma tende a dimostrare che più c'è spesa privata e meno salute viene garantita alla popolazione, che poi è anche abbastanza intuitivo, perché se ragioniamo in termini di singolo, uno più soldi ha è meno sicuro. Se ragioniamo in termini di popolazione, ci sarà sempre una quota della popolazione che ha pochi soldi e che a fronte, per esempio, della carenza di soldi deciderà di non curarsi perché deve farci cose più importanti, quindi ci deve mangiare per fare altre cose. Per dire, vedo molte persone non vanno dal dentista perché sono pochi soldi, oppure vanno dal dentista in Romania, oppure vanno dal dentista in un'altra parte. Poi tocca vedere quando tornano dal dentista in Romania se si portano oltre i denti messi bene, se si portano le maglie o le altre cose. Comunque è abbastanza intuitivo comunque che da un punto di vista di popolazione il privato non funzioni. E comunque poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci mette a disposizione diciamo questo grafico che chiarisce questo aspetto. In effetti poi se poi andate sulle banche dati, le banche dati scientifiche, PubMed o altro, e fate queste interrogazioni, cioè cercate le evidenze che dimostrano che il privato funziona meglio del pubblico, cioè che pagando la popolazione salute. Voi non trovate nemmeno un'evidenza, perché non c'è nessun lavoro scientifico, nessun convegno scientifico, c'è qualcuno che può alzarsi in piedi e dire il privato in sanità, da un punto di vista di popolazione, funziona meglio. Poi certo, individualmente uno può farsi rifare tutto, la faccia, le orecchie esterne, può diventare più alto, più bello, più giovane, ma in termini di popolazione questo non funziona. Invece se andiamo a vedere, però dovrebbe essere posta anche un'altra domanda, ma in questi 30 anni ultimi che sono passati, ma che cosa hanno prodotto i servizi sanitari? Cioè negli stati in cui c'è la spesa sanitaria, che cosa è stato prodotto? E allora voi vedete, questa è una diapositiva dell'OMS, fa vedere l'OMS con grande chiarezza che i servizi sanitari, gli health system, invece di produrre, perché la linea lì tratteggiata in alto, cioè equità della salute, invece di produrre un accesso universale a servizi che people centered, cioè centrati sui bisogni della gente, e invece di produrre community health, cioè comunità sane, hanno prodotto queste altre tre cose, cioè lo sviluppo di ospedali al di là dei bisogni della popolazione, la commercializzazione dei servizi sanitari e la frammentazione, cioè i servizi sanitari lavorano per finalità che non sono quelle per cui sono stati creati. Quindi questo si chiama sostituzione di fini, è un fenomeno noto in sociologia ampiamente, che le organizzazioni sono create per raggiungere alcuni fini e poi a un certo punto invece per vedere il funzionamento concreto fanno un'altra cosa. Allora si tratta di chiedersi perché, quindi noi ci troveremo di fronte a questo dilemma, che il privato non funziona, cioè non produce salute nella popolazione, ma il pubblico sostituisce i fini e quindi fa cose che non sono esattamente quelle per cui è stato creato. Chiaro? Io mi devo alzare i piedi perché il computer non mi fa vedere sullo schermo qui qua. Allora, per cui un organismo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che si chiama Commissione sui determinanti sociali della salute, recentemente in un convegno a Londra nel novembre del 2008, in piena crisi finanziaria peraltro, ha sostenuto che la l'assistenza sanitaria non è una merce del mercato ma un bene comune. Si tratta di un'affermazione autorevole, che non è fatta io come singolo medico igienista, ma è una commissione internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha posto questo problema. La sanità è un bene comune. Solo adesso si tratta di capire che cosa intendiamo quando diciamo che la sanità è un bene comune. Allora, forse può essere utile mettere a fuoco che cosa è cambiato dal 78, cioè fine anni 70, molti di voi non erano nati, in cui sono stati creati i servizi sanitari nazionali, ad oggi, no? Allora, se noi andiamo a vedere i principali cambiamenti socio-economici e politico-istituzionali negli ultimi 30 anni, dobbiamo partire un po' dalla parte, diciamo, là, rispetto a voi, sta più a sinistra, della diapositiva. Allora, il cambiamento più rilevante che c'è stato ha riguardato la composizione tecnica della forza lavoro. Nel 78 avevamo gente che lavorava in fabbrica e che svolgeva lavori prevalentemente basati sulla manualità. A cavallo di quel periodo però sono completate due grosse trasformazioni. Da un lato c'è stata la transizione culturale, cioè la maggior parte della popolazione ha imparato a non solo a leggere e a scrivere, ma anche ad avere una cultura di base che è sufficientemente elevata. Sufficientemente elevata da permettere di cosa? Di utilizzare quelle che sono le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che pure sono intervenute, hanno iniziato a svilupparsi alla fine degli anni 70 e poi. Quindi sviluppo delle forze produttive, messa a disposizione di computer e creazione di reti di comunicazione nel mondo, e dall'altro lato processi di crescita culturale della popolazione. Hanno portato, e oggi in effetti così va bene, una composizione tecnica della forza lavoro più basata sulle conoscenze. Oggi qualsiasi lavoro prendiate, la maggior parte dei lavori che prendiate nell'organizzazione lavoro di supporto, richiedono comunque per la loro realizzazione un forte contenuto di conoscenze, anche la capacità di utilizzare gli strumenti, le tecnologie per la gestione dell'informazione. A questo cambiamento della composizione tecnica della forza lavoro ha corrisposto poi un cambiamento anche delle modalità di valorizzazione del capitale. Siamo passati infatti alla centralità della produzione territorializzata. Prima c'erano delle fabbriche che stavano su dei territori. In quelle fabbriche avvenivano dei cicli produttivi complessivi. Chi lavorava in quella fabbrica, i lavoratori, conoscevano tutto il ciclo produttivo e potevano, attraverso l'azione politica e sindacale, andare a dire qualcosa su quel ciclo produttivo, a fare lotte per aumentare i salari, a fare lotte per avere il controllo. Adesso non abbiamo più, proprio per effetto della formazione di questa capacità, diciamo, di trasmissione delle informazioni e di interconnessione del mondo, che la produzione è uscita dai singoli territori. Oggi, se io devo fare, per esempio, una porta, compro il legno sul mercato mondiale nel paese in cui il legno ha il valore più basso. Le maniglie le comprerò nell'altro paese in cui il valore sarà più basso, la vernice e così via, e l'assemblaggio pure lo farò fare, se faccio un processo industriale ad scala, nel paese in cui il costo lavoro è più basso. Non solo, ma terrò sotto controllo questi quattro fattori della produzione, pronto a spostare la mia produzione o i miei acquisti nel luogo in cui le cose costano di meno, anche perché se io non lo facessi andrei fuori nel campo, perché gli altri che trovano le porte farebbero la stessa cosa. Non solo è successo questo, ma l'altra cosa che è successa è che oltre a globalizzarsi la produzione si è anche molto collegata alla finanza. Per cui oggi, mentre noi nel 78 avevamo circa 500 multinazionali nel mondo, oggi ne abbiamo circa 50.000. Queste multinazionali non ragionano solo in base di soldi che fanno con la produzione, cioè in termini di profitto, ma ragionano soprattutto in termini di valori in borsa, sono tutte collegate in borsa. E i soldi che si fanno in borsa non sono tanto il frutto di un profitto, cioè di uno sfruttamento, di una messa al lavoro di operai, di forza lavoro, ma sono il frutto di operazioni che si fanno lavorando sulla rendita, per cui si lavora sull'immagine, si lavora sul marchio, si mette, diciamo così, a profitto con i tempi velocissimi, quello che è la rendita finanziaria in borsa, si mette a profitto, diciamo così, il marchio complessivo, la capacità complessiva di produrre rendita. Altro cambiamento importante è che nella fabbrica territorializzata in cui c'era una forza lavoro, diciamo, più basata sulla manualità, era possibile una forte partecipazione politico-sindacale. Oggi, nel mondo, con la finanziarizzazione più passiva, noi abbiamo una crisi della rappresentanza e anche una disgiunzione, i sociologi parlano di disgiunzione tra potere e esperienza. La crisi greca è anche un esempio di questo. Voi vedete che in Grecia puoi anche andare avanti al Parlamento, puoi andare nelle banche, eccetera, però tu lì non hai le leve per andare a modificare le scelte che avvengono sul mercato finanziario mondiale. C'è proprio una disgiunzione. L'esperienza che tu hai sul territorio non ti permette di impattare i luoghi in cui vengono prese le decisioni. Questo lo possiamo vedere anche noi sugli assetti delle città. No, uno fa tanto bene una programmazione nella città, una città urbana molto carina, con la piccola distribuzione commerciale, eccetera, a un certo punto è arrivato il modello Walmart che ha portato a far sviluppare i centri commerciali. Ora nessun programmatore, nessun urbanista avrebbe programmato una situazione in cui tutta la popolazione va a fare spesa tutti i giorni utilizzando la macchina in un posto fuori città. Cioè, dal punto di vista dell'assetto della città è una follia totale, perché chiaramente il modello non fu, però è arrivato questo modello Walmart e adesso hanno tutti i centri commerciali. Poi è arrivato il modello Walt Disney per le multisale, e anche le multisale sono spostate nei luoghi che servono le macchine, praticamente tutta la programmazione territoriale è saltata. Ecco, questo è un esempio di quello che io dico quando voglio sostenere che oggi parlare di comunità di territori è molto diverso di quanto ne potevamo parlare negli anni 70. Lì era possibile programmare e incidere, qua è più difficile programmare e incidere. L'altra cosa che è cambiata molto sono le politiche pubbliche. Fino alla fine degli anni 70 le politiche pubbliche servivano a regolare le attività del privato, cioè il pubblico metteva i limiti al privato e diceva quello che il privato poteva fare e non poteva fare. Oggi invece le politiche pubbliche sono politiche di supporto al privato. Voi vedete che le amministrazioni cosa fanno? O modificano le politiche fiscali, per cui se una multinazionale vuole spostare un'industria in Polonia, in Tunisia o in Italia, il pubblico che fa? Gli abbassa le tasse, in questo modo richiama l'industria, ma poi mette a disposizione il territorio dell'industria di quella multinazionale, quindi le politiche pubbliche sono politiche di supporto al privato. L'abbiamo visto anche con la crisi finanziaria ultima. I debiti pubblici degli stati sono aumentati, stavano tutti intorno al 3-4% prima, adesso sono arrivati a essere il 10-12-12%. Che è avvenuto nel frattempo? I soldi di tutti sono stati messi a disposizione delle banche per ripianare i disavanzi. Quando quindi parliamo di uso privato del pubblico, facciamo riferimento proprio a questo cambiamento di senso delle politiche. L'ultimo, ci sono molti elementi di differenza tra il 78 ed oggi, e questo è un elemento pure che è collegato con la tecnologia. Negli anni 70, così come stiamo facendo adesso, le decisioni venivano prese, o potevano essere prese, in contesto con dispositivi relazionali che presuppongono il contatto diretto tra le persone. La riunione o l'assemblea, no? Sembrano molto democratiche, ma in realtà hanno dei vincoli di spazio temporale. Per esempio, stasera qui, ammesso che abbiamo questo stato di interesse, a venire a sentire questo discorso possono farlo chi sono quelli che hanno il tempo libero in questo momento, che riescono a stare qui in questa sala. Inoltre, poi, voi dovete capire quello che io dico nel tempo breve, con le capacità espositive chiaramente che ho io, nel tempo breve della mia presentazione, se ci sarà una discussione, pochi di voi probabilmente potranno parlare. Questi sono i limiti spazio temporali dell'assemblea, dei dispositivi relazionali, diciamo, concreti. Lo sviluppo invece delle forze produttive ha portato all'attivazione della rete internet, che adesso non è il caso di approfondire troppo il discorso sul web 2.0, però ne avrete parlato, non so se ne avete parlato, forse questo è un argomento importante. Il web 2.0 è il livello di sviluppo delle forze produttive nella rete che permette condivisione, cioè noi abbiamo una serie di strumenti che servono, quando andiamo in rete noi condividiamo con altri le nostre emozioni, i nostri punti di vista, i nostri desideri, le nostre conoscenze. E questo ha prodotto, in questa tesi, la tesi di Casters, che è un sociologo catalano negli Stati Uniti, dei fenomeni di autoattivazione. Comincia a produrre autoattivazione, cioè i cittadini, indipendentemente da quello che gli fanno sapere i media ufficiali, si autoattivano. Noi come medici abbiamo visto con l'ultima vaccinazione, la pandemia, tutti voi sarete stati interessati alla pandemia, no? La famosa influenza suina. Il tormentone era mi vaccino o non mi vaccino. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, in quel caso sbagliando, essendo condizionata ai casi farmaceutici, ha detto sì, c'è la pandemia, bisogna fare la vaccinazione obbligatoria, però le persone ci hanno creduto, l'hanno fatto, sono andate a vedere in rete qual era l'evidenza di sicurezza e di efficacia di quel vaccino. Non sono rimaste convinte e quindi, attenzione, hanno attinto alla rete come cervello sociale. La rete raccoglie un sapere generale, è facile l'accesso, il cittadino si autoattiva, va in rete, prende le sue informazioni e poi decide come comportarsi. Hanno deciso bene che si sono vaccinati solo l'11% nel complesso militare, quindi quella vaccinazione è stata un fallimento. Però ecco, cominciamo a vedere come i cittadini, anche su fenomeni sanitari, grazie al potere della rete, adottano comportamenti di autoattivazione. E però in questa autoattivazione che mettono in campo dei dispositivi relazionali che sono diversi da quelli assembleari. Se io avessi dovuto convincere, per esempio, oggi, tutti quanti che la vaccinazione non andava bene attraverso riunioni fisiche, non avrei mai finito, probabilmente avrei formato una parte piccolissima della popolazione. Con la rete abbiamo avuto un enorme numero di popolazione che è stata informata e ha potuto scegliere. Poi non sto dicendo che tutto quello che sta in rete è buono e va bene, però ecco, rendiamoci conto che siamo in presenza di dispositivi relazionali che, se ben usati, e tra l'altro le persone le usano già da sole, possono permetterci di fare praticamente delle assemblee delle riunioni mondiali. Cioè io posso stare a Taiwan e partecipare a un forum in cui si discutono priorità sulla sanità in Italia, ho tutto il tempo per informarmi, posso dire la mia e quindi vengono meno i vincoli di spazio di tempo. Questa è una modificazione molto importante per chi vuole, come dire, dare una base di massa alla programmazione sanitaria. Un altro fattore grosso che è cambiato, questo di cui dobbiamo ricordarci, è il famoso cambiamento climatico. Mentre la salute prima era più un fatto individuale, no, vabbè, uno dice, cioè, abbiamo poi determinanti genetici. Con la questione della genetica va detto questo, che noi abbiamo fatto gli studi di genetica. Se la genetica determinasse completamente la salute delle persone, cosa dovrebbe accadere? Che i gemelli monopoliari, cioè che nascono, dovrebbero più o meno morire la stessa malattia allo stesso tempo, se la determinazione fosse assoluta. Invece, studiando i gemelli monopoliari, si è visto che uno muore di una cosa a una certa età e un altro muore di un'altra cosa a una certa età. Quindi questa determinazione assoluta della genetica non c'è. L'evidenza più è fornita dalle popolazioni che migrano. Prima, per esempio, i giapponesi avevano un'alta incidenza di cancro allo stomaco. Studiando i giapponesi di seconda generazione negli Stati Uniti, si è visto che non morivano più di cancro allo stomaco, ma morivano delle malattie di cui muore la popolazione statunitense in media. Quindi questo significa che la genetica, come dire, carica l'aria, ma poi è l'ambiente che prende il grilletto. A un certo punto, certo, io sono molto alto, con il viso in un certo modo, ma comunque saranno le esposizioni complessive che io ho che decideranno di che cosa a un certo punto se dobbiamo morire o morire. Affianco quindi a questa situazione in cui la salute è data da determinanti genetici e anche da determinanti sociali, il reddito, la quantità di soldi che abbiamo, la socialità meccanica, adesso si è introdotto questa nuova condizione. Queste sono, là sono le curve dell'aumento della temperatura negli ultimi 150 anni, vedete che è quella orizzontale, poi negli ultimi 75 anni c'è più tendenza, poi negli ultimi 50 anni, poi negli ultimi 25 anni. Questi sono i dati dell'Istituto Meteorologico Inglese su cui si è basata l'Organizzazione Mondiale della Sanità per dire sì, effettivamente c'è il cambiamento climatico. Cioè ormai sul fatto che il cambiamento climatico ci sia non c'è più una discussione scientifica o dubbio. Cioè, dopodiché il cambiamento climatico non significa che farà comunque sempre più caldo, significa che i fenomeni meteorologici e atmosferici diventeranno sempre più, come dire, squilibrati, per cui avremo più piogge, più siccità, più alluvioni. Uno degli effetti sarà quello appunto che cambieranno, per esempio, le zone di diffusione dei vettori, che cambierà la disponibilità di acqua, perché ci potrebbero essere migrazioni verso una questa disponibilità di acqua e così. Quindi questo però significa, questa è la parte di sinistra, che in sostanza human health and poi, cioè i punti di impatto sulla salute umana del sistema sono determinati in gran parte dalle fonti di energia da come le utilizziamo. Le fonti di energia come le utilizziamo poi hanno l'effetto sull'inquinamento dell'aria, sul cambiamento climatico, sulla disponibilità di acqua, sui sistemi socio-economici. Questo è un modello sistemico per interpretare come funziona la salute oggi. E questo da lì alla complessità. Quindi possiamo dire che per quanto riguarda la salute oggi è un bene comune. In effetti noi siamo interconnessi, visto che il mondo è uno solo, non possiamo spostarci da un'altra parte. Il governo e il controllo delle politiche energetiche, in quanto in grado di condizionare la vita di tutti sul pianeta, ci lega alla salute come antifatto, noi siamo collegati, potremmo anche dire vado a fare il fichettone sul Monte Peglia, sto lì in campagna, non sporco, non faccio niente, però se il mondo continua a produrre energia, così come la produce, avremo gli effetti anche nel posto in cui siamo scappati. Quindi siamo collegati a questa situazione. E in più c'è il discorso del mercato finanziario, queste cose guarda quando le diceva Kassel, le diceva Negri, le dicevano tutte, intorno agli anni 2000 sembrano avveniristiche, adesso quello che stiamo vedendo che succede in Grecia, che succede sui mercati mondiali, sono di un'attualità assoluta. Cioè noi abbiamo un mondo che decide, quel che è il mondo voglio dire della solidarietà in rete, che sta nelle città, nella parte della City di Londra, che sta a Wall Street, che sta a Chicago, che sta a Shanghai, che per valorizzarsi produce flussi di potere che iniziano informazioni. Per esempio, cominciano a dire che il debito pubblico della Grecia è insostenibile, no? Che si andrà incontro a anemia, quindi creano le aspettative, cominciano a dire che il prezzo del petrolio comunque è destinato ad aumentare, o cominciano a dire che il prezzo delle materie prime alimentari è destinato ad aumentare perché ci sarà scarsità. Chi produce l'informazione, no? Condiziona le aspettative sul mercato. Altre aspettative possono essere condizionate dagli strumenti finanziari. Se io attraverso il sistema delle vendite ho scoperto posso comprare i titoli di uno Stato senza averli, posso vendere i titoli di uno Stato senza averli comprati e li vendo a un prezzo, per esempio, è più basso di quello del mercato, perché diciamo, vabbè, adesso su questa cosa non abbiamo. Questi titoli non hanno un valore particolare perché scendiamo direttamente, modifico, prefiguro le aspettative di tutto il sistema su quei valori economici. E quindi questo è un po' quello che accade adesso, questi giorni poi stiamo vedendo tutti quanti. C'è questo mondo che ha la possibilità di disporre di denaro, di informazioni e di flussi di potere e connette e sconnette territori. L'esempio che facevo prima sulla costruzione della porta, no? Compro il legno adesso in Mozambico. Ma tra 3 anni lo posso comprare in Kenya, la trasformazione la faccio fare adesso in Italia, ma se la Tunisia mi garantisce una politica fiscale a costi zero, io sposto la fabbrica in Tunisia. Per cui i territori sono connessi e sconnessi in base ai vantaggi di questo sistema e questo crea degli squilibri e anche una difficoltà di governare i territori. Per cui noi possiamo dire in sintesi che il mercato finanziario oggi funziona come modificatore di effetto delle determinanti di salute. Cioè, se è un determinante sul dell'alimentazione, il mercato finanziario condiziona pesantemente la disponibilità di alimenti per la popolazione, quindi fa da modificatore di effetti in termini di energia. Il che si aggiunge allo scenario che abbiamo detto, che ci vede un po' tutti collegati anche nel cercare di difendere la salute. Allora quindi torniamo ai nostri modelli di gestione. Noi abbiamo detto prima che il privato non funziona, che il pubblico sostituisce. Noi spezziamo un'arancia a favore di questo modo di gestione, del modo di gestione comune. Adesso, in modo estremamente sintetico, perché ci sono anche i filosofi, quindi bisogna essere attenti quando si fanno queste affermazioni, ma possiamo dire che nel modo di gestione privato un bene appartiene al proprietario, non dispone pienamente per produrre profitto o rendita. In effetti io posso anche distruggere il bene che possiedo, perché è nella mia piena disponibilità, no? Perché non voglio trarre tutto il profitto così, non mi interessa che questo bene sopravviva, lo voglio sfruttare fino in fondo, lo distruggo. Nel modo di gestione pubblico, un bene non appartiene a nessuno, dice Rousseau, in effetti, adesso riflettendo un po' sulla disaffezione che c'è, perché se c'è un qualcosa che non va per la strada, cioè in un luogo pubblico, è difficile che se prendete certe persone, più della metà si fermino ad aggiustarla o sentano immediatamente che quella cosa appartiene loro e che devono essere loro che intervengono. Il pubblico si comporta per questo, non appartiene a nessuno. Mentre invece quello che in un mondo fatto in questo modo, cioè in un mondo interconnesso in cui la salute dipende dai comportamenti di tutti quanti, dedichiamo le fonti di energia, in cui comunque sia dobbiamo anche provare ad opporci a questo mercato finanziario che praticamente ha messo al lavoro tutta la nostra vita, noi dobbiamo iniziare a ragionare su un modo di gestione comune, perché nel modo di gestione comune un bene appartiene a tutti. Ecco, questa è una posizione che ha sviluppato Negri, tra poco sarà pubblicato anche in Italia questo testo, Comune, e comunque poi la produzione, diciamo, di filosofia sul comune fa più attualmente, adesso prima anche altri quotidiani che hanno avanzato queste tesi. Qui nella figura vedete come, per esempio, quando è nato il servizio sanitario nel 78, c'erano i movimenti sociali, prima le diverse condizioni economiche e sociali, e avevamo un servizio sanitario partecipativo. La proprietà e il possesso in qualche modo coincidevano. In una situazione di alta partecipazione le persone si fanno carico delle cose. A mano che la forza dei movimenti è scesa, diciamo, proprietà e possesso sono disgiunti. Praticamente aumenta la deroga. Oggi chi pensa? Si pensa il direttore generale dell'ASL. Ma chi è il direttore generale dell'ASL? Però lui è plenipotenziario, è lui che decide quante visite possiamo fare, che sanità ci dà, eccetera, eccetera. Quindi si creano dei sistemi che possono poi dare luogo alla sostituzione dei fini sociali che prima l'Organizzazione Mondiale della Sanità denunciava. Quindi, entriamo un po' a parlare di cosa sono questi beni comuni. Allora, noi qui facciamo un riferimento in generale, per bene comune si intende un bene che è proprietà di una comunità e del quale la comunità può disporre liberamente. Nella tradizione giuridica anglosassone questi sono i commons. È di interesse introdurre la definizione di S. di Ostrom. Ostrom soprattutto è un economista dei beni comuni che ha vinto il premio Nobel per l'economia nel 2008. Questo è anche un elemento interessante. Fino al 2007 dava il premio Nobel per l'economia ai professori delle scuole aziendali perché mettevano appunto questi sistemi per trarre l'etica da loro. Con la crisi, anche chi lo è a Stoccolma, si sono resi conto che forse era il caso di sviluppare un'altra economia, l'economia dei beni comuni. E hanno dato il premio Nobel a questa Ostrom, che ha fatto degli studi sui beni comuni. E lei ha dato questa definizione che è interessante perché ha una decisione problematica. Un bene comune è una risorsa condivisa da un gruppo di persone e soggetta a dilemmi sociali. Per cui il bene comune è libero da valori. Cioè, magari qualcuno ha avuto l'impressione di quando dicevo il privato fa i danni, il pubblico sostituisce i fini, il comune invece può appartenere a tutti e funziona per forza. Non necessariamente è così. Il comune può funzionare se noi riusciamo a mettere in campo una serie di dispositivi che creano senso nel sentire l'appartenenza a quel bene e nel creare processi di inclusione e partecipazione su quel bene. Proprio perché il bene comune è libero da valori, il suo esito può essere buono o cattivo, sostenibile oppure no. Per garantire, diciamo, stabilità a questo bene comune abbiamo bisogno di chiarezza, buone capacità decisionali e strategie di gestione collaborativa. Però ecco, quando noi cominciamo a introdurre il concetto di bene comune, apriamo l'orizzonte. Questo qua è l'effetto, non esiste più solo pubblico o privato, comincia a starci in comune, un modo di gestione diverso, impegnativo, che non necessariamente va a finire bene, però insomma il concetto di bene comune ha queste valenze. Intanto ha una valenza descrittiva, identifica dei modelli di governo che altrimenti non verrebbero esaminati. Se noi non avessimo introdotto il concetto di comune saremmo ancora di no, io privatizzo, pubblicizzo, privatizzo, pubblicizzo e non se ne viene fuori. Poi è costitutivo perché ci fornisce un nuovo linguaggio e quindi ci aiuta a costituire nuove comunità sulle basi dei principi del bene comune. Ha un potere costituente il concetto di comune. Quando e il concetto di comunità nell'ottica della costruzione del comune non è il concetto di comunità indistinta in cui tutti sono uguali. La comunità è quella che si costituisce a partire dal riconoscimento e dall'accettazione delle regole che permettono al bene comune di restare dato. Quindi è un tipo di comunità in cui non è che sono tutti cavalieri, todos cavalieri, no, quelli che riconoscono quei principi stanno all'interno di tutte queste. E poi l'altra valenza che sta nel concetto di bene comune che è espressiva, perché il linguaggio dei beni comuni è un modo grazie al quale le persone rivendicano un legame personale con un insieme di risorse. Se io intendo la terra come un bene comune, allora mi interesso di più, cerco di fare in modo che il bene terra, il bene pianeta sia restituito. Se io intendo la città come bene comune, non accetterò che sia lasciata ai commercianti, che sia lasciata, voglio dire, ai processi di speculazione di rendita finanziaria, ma mi interesserò di quello. Certo, se io delego l'assessore al territorio, è chiaro che quello poi sarà sensibile forse anche a chi vuole fare il centro commerciale su uno snodo, chi vuole fare una sala da un'altra parte, e per cui non tutelerà la città come bene comune. Però la differenza è che se lascio la città al privato è tutta replica, se lascio la città al pubblico comunque sia non governo il territorio, se invece me ne interesso, cioè ci sto dentro, e allora diventi un legame con questo territorio, con questa città. E vedo anche il legame che ho con gli altri, quindi cresce anche una relazione, una relazione. insomma, quello che abbiamo fatto, che ore sono? 9:30. 7:30, no, allora andiamo più veloce. Comunque, concettualmente, ecco, noi potremmo oggi arrivare a definire un insieme di variabili che rendono possibile gestire la sanità come bene comune. In un approccio sistemico, voi ragionate su un sistema, voi ad esempio degli input, cioè dei fattori che alimentano il sistema, avete delle variabili interne, cioè il metabolismo del sistema, e poi il sistema produce degli output, dei prodotti, e questi prodotti hanno un'influenza sul sistema stesso, cioè sono gli outcome. Allora, noi possiamo dire, possiamo fissare dei lineamenti di questa realtà con bene comune, individuando gli input nel modo che vedete scritto, per esempio i bisogni potrebbero essere dati alle valutazioni di impatto sulla salute dei determinanti globali, sociali e individuali. Il mandato potrebbe essere dato alle indicazioni OMS, che però sia democratizzata e non riserva dell'industria farmaceutica. Le risorse devono essere basate su un prelievo fiscale progressivo sulle transazioni comunque svolte. Le conoscenze, abbiamo già la rete globale di valutazione delle conoscenze, e il contesto in cui caliamo questo è quello della costruzione del mondo. Le finalità generali potrebbero essere queste, in effetti noi la sanità puntiamo ad avere quelle più tassane, puntiamo ad avere il piano della salute. Il piano della salute significa che chi sta male deve avere più diritti, e poi in effetti noi lo facciamo già. Oggi noi riconosciamo al disabile sicuramente il diritto ad avere più prestazioni di quanto ne possa avere un cittadino invece che quelli che stanno andando dentro. E poi dobbiamo dare alla popolazione l'assistenza che effettivamente le serve, quindi meno tecnologia, se possibile, meno interventi aggressivi. Le variabili interne importanti sono quelle, un sistema sanitario che difende la salute come bene comune oggi deve intervenire a livello locale. Deve intervenire a livello di Stato e rete, cioè oggi noi abbiamo che gran parte della normativa sulla sanità la fa l'Unione Europea. L'Unione Europea fa circa il 50% della normativa. A Bruxelles ci sono 17.000 lobbisti che hanno stabile che stanno lì a fare in modo che la normativa che viene fuori risponda agli interessi dell'industria. Non ci sono rappresentanti, se non nel Parlamento Europeo, della tutela della salute degli italiani e dei lupi del mondo, e questo è un problema serio. E poi c'è il problema di come si interviene a livello globale. No, come, per esempio, negli scambi commerciali tra paesi deve prevalere l'interesse economico o deve prevalere anche la tutela della salute? Nelle politiche energetiche mondiali deve prevalere l'interesse, vuol dire, dell'industria del petrolio o deve prevalere la tutela della salute? Non lo abbiamo detto prima. E poi così via, insomma, qui possiamo, ci sono anche altri dettagli sui sistemi operativi e come dovrebbero funzionare. In estrema sintesi, in sanità oggi si riconosce che è giusto dare ai cittadini quelle prestazioni per le quali c'è evidenza di efficacia. Evidenza di efficacia, si assume, diceva prima, si fa un gruppo di trattamento e un gruppo di controllo, no? A parità di problema, su 100 persone, 50 le trattiamo, 50 non le trattiamo, chiaramente il trattamento deve essere fatto in cieco, perché chi legge l'esperimento non deve sapere chi è trattato e non è trattato, e poi si vede se funziona o non funziona. È un po' schematico, però comunque sia ti dice se la cura è efficace o non è efficace. Voi prendete per cose forti, quali potrebbero essere le vaccinazioni, almeno le vaccinazioni fondamentali, il gioco della pandemia. Voi sottoponete una popolazione a una vaccinazione, un'altra non la sottoponete a vaccinazione, vedete che una popolazione non vaccinata le malattie sono molto più frequenti. Parliamo degli antibiotici hanno un grande livello di efficacia, quindi soggetti con una polmonite, trattateli, prendetene altri, infatti questo non è etico, probabilmente non li trattate, perché quelli non trattati non vogliono così. Però ecco, l'importante è che si misuri qualcosa, e che gli studi siano chiari. I sistemi gestionali per la costruzione del comune non sono più quelli aziendalisti in cui arriva quello che fa il progetto e poi lo mettete e quello è che un altro lo mette in atto. C'è una differenza tra la progettazione in ambito aziendale e la progettazione nel privato, la progettazione nel pubblico e la progettazione nel comune. La progettazione nel privato, avete visto gli schemi, fanno vedere, allora, pianifica, mette in atto, controlla, quello però che presuppone? Presuppone la piena disponibilità del bene. Io posso pianificare, dire ad altri di fare delle cose, quando il bene è mio, se la fabbrica è la mia, in effetti, posso dire io pianifico e tu esegui, che è un modello fordista di programmazione. Io progetto e tu esegui. Io poi ne prendo i soldi, tra l'altro, ma a parte questo, In sanità questa cosa non funziona, siccome si tratta di fare le cose tutti insieme, il modello, io progetto due esempi, non funziona. Invece quelli, i modelli gestionali che si applicano sono quelli, diciamo, della meta organizzazione, o meglio noti come il peer to peer, o meglio noti come il fuoricerca, o meglio noti come empowerment. Cioè sono i processi in cui non sono progetti, sono processi. Cioè si attivano le capacità delle persone di farsi carico, delle comunità di farsi carico del proprio potenziale di salute. E poi si va avanti nel mantenerli. Quindi lì non bisogna tanto ritagliare quello che devono fare, bisogna sapere creare senso, includere e condividere. Mentre la creazione di senso è difficile, l'inclusione e la condivisione oggi hanno nel web 2.0, cioè questi strumenti informatici, dei supporti molto forti. E quindi no. E poi ci sono i dispositivi relazionali, cioè chi valuta che il sistema funziona. No, un approccio privato valuta il privato, in base a che cosa? In base al reddito che ha o alla rendita che ha, in base all'approccio pubblico chi valuta? In Italia si fa una super commissione di esperti che non chiede niente a nessuno, si mette là e dice se l'obiettivo è stato raggiunto. In un approccio comune la valutazione è condivisa, cioè il sistema funziona se quelli che sono i soggetti che partecipano alla visione del comune riconoscono, anche partecipando alla fase di costruzione degli indicatori di valutazione, che la cosa è effettivamente produttiva. Voi non so se siete mai entrati in un ospedale, no? Da un punto di vista di un ospedale, adesso siete tutti giovani, ma un conto è se l'ospedale viene valutato in base all'interesse di un privato che lo gestisce. A quello gli interesserà se l'ospedale fa i soldi o no, poi se voi sopravvivete o meno, è un altro. Nel pubblico succede che sì, si vede la sopravvivenza, però il comfort, l'accoglienza, cioè l'interesse, come vengono trattati i cittadini, viene poco preso in considerazione. Adesso vi faccio vedere alcuni sistemi, poi finisco veramente, che potremmo iniziare fin da oggi a mettere in atto per dare una concretezza a questo discorso della sanità come bene comune. La prima cosa che potremmo fare è la scelta condivisa delle priorità. Quello che è fondamentale è che, siccome le risorse saranno sempre poche, che cosa fare con le risorse deve essere condiviso. Perché se no, per esempio, oggi voi vedete i servizi di sanità pubblica sul nostro territorio, che fanno? Vanno a controllare le piscine, vanno a controllare l'acqua potabile, vanno a controllare cose che non danno fastidio a nessuno. E per esempio noi in Umbria non sappiamo che fine fanno l'85% dei rifiuti industriali. No? Poi magari vanno a finire in Costa d'Avorio, vanno a finire giù a Chiaiano. Non c'è controllo, semplicemente non c'è controllo. Allora, chi è che deve decidere che il Dipartimento di Prevenzione guarda fino a portare le piscine o a vedere che fine fanno di fronte? Se la scelta è tecnica, se la scelta va ai privati, sicuramente non dovremo guardare le piscine. Se la scelta va al pubblico, sai, il sindaco comincia a dire, ma insomma non mi rompere tanto le scatole, perché no, poi mi chiude l'industria e perdo i posti di lavoro. Se la scelta è comune, se comincia a ricordare tutti quanti, noi sappiamo che poi adesso hanno tutti i battiti sull'acqua, però piccola parentesi. L'acqua non è un bene comune solo perché esce dall'acquedotto. Se poi andate a vedere che fine hanno fatto le falde, l'acqua è un sistema complessivo. L'acqua cade dal cielo, va a finire nelle falde, dalle falde poi filtra, va sotto, noi la prendiamo attraverso i pozzi, ma le falde sono state in gran parte inquinate dall'agricoltura e dalla dispersione non controllata di inquinanti da parte delle fabbriche sui territori. Questo è un bene comune. Quando noi andiamo a valutare dove mettiamo i soldi nel controllo, quali sono le priorità, è un conto se condividiamo tutti insieme, un conto se, e queste qui, qualcuno se le decide per conto suo. Un altro aspetto, la verifica della condivisa della qualità dei servizi, cioè del servizio, allora in genere si fanno le carte dei servizi, voi vedete, non la telecom, non spiace, c'è la carta dei servizi. Però chi ha deciso che cosa si va a vedere? Un ufficio apposito. Chi lo verifica? Lo verificano loro stessi. Cioè, l'azienda, Trenitalia, l'Enel, l'ARS, fa una commissioncina interna e fa vedere se gli standard di qualità sono rispettati o no. Un conto è fare una commissione esterna che è il regime di terzietà, cioè senza avere interesse, va a vedere che gli standard sono rispettati. Altro conto è se io faccio gli standard da solo e dico che li rispetto. Cioè non può funzionare. Queste sono cose che noi adesso stiamo facendo, stiamo sperimentando con l'Associazione dei Consumatori di Umbria in tutte e sei le aziende sanitarie un metodo che si chiama audit civico. Cioè abbiamo fatto un bando in base al quale tutti i cittadini possono iscriversi a fare l'audit civico. Dopodiché l'audit civico è un sistema per cui si definiscono insieme all'ospedale le cose da vedere, i cittadini vanno dando una checklist precisa di L'ultimo elemento, vabbè, riguardava la valutazione, ecco, condivisa sugli esiti, cioè bisogna vedere poi se questi sistemi producono salute, il caso del cambiamento climatico è fondamentale, il caso della disponibilità di alimenti è fondamentale, anche qui si può arrivare a quelle condivisioni. Quindi in estrema sintesi io sostengo che ci sarebbero le condizioni, anche quasi proprio, visto che la salute è divenuta un bene comune anche per effetti di cambiamento climatico, di pressione dei mercati finanziari, sarebbe importante assolutamente non prendere in considerazione la privatizzazione della sanità, sarebbe importante non continuare a fidarsi del pubblico, perché il pubblico produce delega e poi non ci tutela sul lungo periodo, anzi consuma i beni comuni ugualmente, mentre la soluzione che si propone è quella di pensare a una sanità che agendo a più livelli, a livello locale, a livello di presa di decisioni medie, per esempio europeo e a livello globale, l'OMS riesca attraverso opportuni sistemi di coinvolgimento, per i quali anche la rete ci fornisce le soluzioni, a farci sentire ecco, la salute come un bene comune, a farci partecipare tutti quanti, ma non solo alla difesa della salute, anche alla gestione della sanità. Questo è il senso generale della cosa. Poi le cose che ho detto hanno una base bibliografica, per cui non so se partecipare. Sì. Non so se è un corso molto schematizzato, no? Pubblico, privato, comune, però mi sento che era la discussione di questo. Sul sito dell'Onda ci stanno tutte le lezioni fino a mo, più la bibliografia. Comunque c'è cioè, la bibliografia se mi interessa molto italiana, che sono delle fantastiche. Il fatto che ancora la psichiatria sia ancora un po' abbandonata a se stessa, al di là dell'aspetto economico, no? L'aspetto anche culturale, c'è un aspetto ancora prima, ancora più semplice, vi spiego. Io che faccio l'infermiere non c'è nessuno disposto a andare a scrivere, che voglio fare chirurgia, la biologia, e neanche viene sponsorizzata. Fare le domande, cambiamo due tre. fare i sacrifici per comunque a un certo punto la nazione riduceva a bere, ma adesso si viene chiesto di fare sacrifici per dipianare sostanzialmente poi i bilanci delle banche, cioè comunque sei quelle regioni dalla cui sottrazione delle risorse si alimenta, voglio dire, non tanto il bene, ma il bene però il sistema di dati ha funzionato dei meccanismi, vuol dire, molto intelligenti, molto cinici di captazione del valore prodotto dalla nostra vita e sono estremamente efficienti, estremamente funzionali. Chiaro che insomma a un certo punto si tratta di vedere per che cosa lavoriamo, perché adesso per esempio già in Grecia ci saranno tagli, no, gli investimenti pubblici, la sanità, la Turchia è passato sotto voce, ma l'altro anno è arrivato il Fondo Monetario Nazionale e la Turchia ha privatizzato i servizi sanitari. 110 milioni di persone, se poi la sanità sta a parte, capito? Oggi nel mondo abbiamo 5,6 miliardi di persone che si parlano di stesso. Allora, qui adesso poi, no, se leggevo la giorno che Cofferati diceva, io come sindacalista non sarei d'accordo, chiaramente, però non mi meraviglierei se anche in Italia ci si mettesse di fronte a un taglio dei salari, dei poteri buoni nella scuola, nella sanità, perché dobbiamo rientrare nei parametri del DEF. Allora voi capite che una situazione del genere, insomma, perché la faccio questa cosa? Cioè io posso anche decidere che prendo troppi soldi come medico e li metto con le circolazione, ma se è chiaramente collegato, no, a una finalità, come siamo condivisa, se prendo tali soldi a ammazzare, se prendo i soldi al fondo di sorso, al fondo primo, un'altra cosa è il discorso che non so quanto regga. Però è chiaro che per, come dire, migliorare la società c'è una dimensione etica di volontà politica, o tu ti costituisci come soggetto, no? Oppure vai a fare appunto un po' le leggi, o compri il flusso perché magari ci guadagni, o ti fanno facendo, magari guarda la borsa perché c'è anche la borsa. Però poi, insomma, sterare anche la calda, perché adesso scendendo di scala, prendendo il discorso della salute mentale, è chiaro che la salute mentale non viene, non è interessante perché intanto perché il manto non guarisce costante. A parte che non è manco chiaro chi è sano e chi è male, cioè ricordiamoci che lì le cose sono molto sulle mani, non esiste normalità, esiste un processo di normalizzazione, quindi da questa parte. Secondo aspetto, il curare il manto non è doloroso. Cioè, tu, nei altri soggetti, magari hanno depressioni, ma poi però, come dire, radicali, perché poi comunque sia. Sembra che la patologia mentale abbia la sua radice nella sofferenza. E la sofferenza, la mancanza, non è tanto una cosa di classe. È una misura che ognuno fa nella propria individualità. Cioè io potrei essere anche il figlio di Soros, però magari vivo in una condizione di sofferenza, di bisogni, di relazioni che per me sono fondamentali, in quella condizione non ce l'ho. E per cui viene poi questo frattempo, una volta che non è che tutti ci abbiamo avuto, per cui il manto non è glorioso come tu, costa un sacco di soldi e non lavora, no, non lavora, non rende. E tu capisci che in una società in cui la cosa importante è fare più soldi nel più breve tempo possibile, in cui le città non sono costruite per gestire le relazioni, no, ma sono costruite per fare i soldi, in cui ecco, i territori sono, non è che fanno incontrare persone, come diciamo, ma è la patologia della sofferenza, la patologia mentale è una società in cui una persona che sta male viene licenziata, cioè quindi adesso in Grecia è successo, cioè lì comunque la facilità di licenziamento è estremamente maggiore. È chiaro che far digerire la gente che decisione del genere fa solo modo, oltre il tutto le licenze. E in una situazione è così, uno che già aveva altri problemi nella vita, non è che si aggrava meglio, si aggrava malissimo. Quindi. E noi per un certo periodo, a fine anni 70, abbiamo sviluppato questa cultura forte anche di non immaginare il manto, no? Per cui la cultura dei manconi e così, che poi diciamo la verità è stata supportata dalla disponibilità di terapie farmacologiche estremamente potenti, per cui non c'era la protezione fisica ma c'era la protezione mentale, perché lì quando prendi quei farmaci è come se c'era la testa di una rabbia, insomma, in qualche modo. Però tutta questa disponibilità fisica che lo prende nell'astro, che è una base su cui la psichiatria, la salute mentale si fonda, potrebbe starci in una società che ragiona in termini bene comuni, una società che produce città, territori, che sono dimensioni del fatto di attrapire le persone. Cioè, se il problema è, io ho un terreno, devo fare i soldi così, perché tanto tanti soldi, io me ne vado, alle mani, sono dall'altra parte, sono a fare i voti, cioè, se ragioniamo tutti così, noi andiamo a contare, adesso non è troppo molto dato una risposta, però la dimensione è quella. In effetti oggi ospedale, l'ospedale è l'idea che arrivi in cucina, ove, no? E tolgo in mano, cioè l'idea meccanicistica per cui la malattia è una qualcosa di esterno, che io ti levo e tu guarisci. Quindi in realtà è proprio questo. Perché oggi le cose che si possono curare delle medicine sono pochissime, oggi le condizioni che trattano sono la depressione, sono il diabete, sono l'ipertensione, sono l'obesità. Cioè sono cose che fanno parte di stili e ambienti di vita complessivi, per i quali non esiste più nemmeno una terapia unica e risolutiva. Intanto oggi quando in cui guarire ci prendiamo un aria su questo, perché sono più elevate, ma anche hanno queste essere così biologiche di stesse. Per cui quello che si auspica è che queste cose si riescano, però sai, poi si fanno le battaglie, tu poni il problema, speri che questo vada. Ho fatto, andiamo. Scusate, ma lei c'ha ragione.